when people have said, you know, what's your relationship like with Jonathan? Neil said, we have a good collaboration. We respect each other. He loves music and I love movies. Insomma, un incontro tra due personaggi molto importanti è avvenuto in realtà in più step. Non si sono messi d'accordo subito, immaginiamo, due persone estremamente impegnate, hanno dovuto trovare il modo e il tempo per lavorare insieme e lo hanno fatto. Sì, il primo incontro, quindi we met, significa proprio, naturalmente da qui viene la parola meeting che noi usiamo, che significa un incontro anche tra più persone, ma to meet, met è un verbo irregolare, è incontrarsi. Quindi ci siamo incontrati per la prima volta, sottointeso, when he did a song for Philadelphia. Ricorderete, la colonna sonora di Philadelphia era splendida, c'era anche un brano di Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia, stupendo. Allora Neil Young gli ha detto, vieni a filmare questo concerto molto importante. Lui non poteva perché stava facendo Manchurian Candidate, un film importantissimo, però non se l'è mica dimenticato. Quando ha finito, cosa ha fatto? L'ha richiamato? Sì, dice, qui usa una forma di condizionale che insomma è abbastanza raro, sappiamo. I would have loved to do it. Mi sarebbe piaciuto, anzi avrei amato farlo, but I was in preparation to do the Manchurian Candidate, ma stava appunto lavorando al Manchurian Candidate, ricordate il film con Meryl Streep, bellissimo. Poi I called him up. Sappiamo che to call up è un po' un rafforzativo, è più che dire semplicemente l'ho chiamato, no? I called him up vuol dire proprio l'ho chiamato, ma perché desideravo intensamente farlo. Allora, hanno avuto una good collaboration perché c'è un aspetto importantissimo, il rispetto. L'uno nei confronti dell'altro e poi questa comunanza di gusti incrociati. Sì, sarebbe veramente, cioè, l'espressione inglese as simple as that, è molto semplice ma molto efficace questo riassumere, che poi è Neil Young che la racconta così, a Jonathan Demme piace a sua volta raccontarla così. We have a good collaboration, we respect each other, he loves music and I love movies. Questo è quello che dice Neil Young, cioè il Jonathan Demme ama la musica, io invece amo i film, e naturalmente viceversa. Abbiamo citato Bruce Springsteen. Jonathan Demme confessa: io vorrei fare un film con Bruce Springsteen, ma sentiamo in che modo. I can tell you that I have been trying to persuade Bruce Springsteen to direct a documentary that I would produce about Asbury Park, because Asbury Park is the ground of Bruce Springsteen, but Asbury Park as a city is also a metaphor for what America always does wrong in creating cities. It's obvious, he'd be a great filmmaker. I mean, this could be such a great film. I hope somehow word reaches him that please use this in the interview, okay? He's like Neil Young. Bruce Springsteen is profoundly creative and I think profoundly cinematic. Allora, fa quasi un appello attraverso questa intervista che ci ha concesso Jonathan Demme a Milano: per favore usatelo nell'intervista, mandatelo in onda, perché io vorrei tanto fare un film con Bruce Springsteen. Ma lui dice: io non voglio filmare Bruce Springsteen come ho fatto con Neil Young. No, no, io voglio produrre un film con Bruce Springsteen da regista. Sì, e qui usa quell'espressione che sappiamo vuol dire un'azione che si protrae da tantissimo tempo. Dice: I have been trying to persuade Bruce to direct a documentary. Quindi è come se dicesse: sono anni che cerco, in italiano diremmo così, è tanto tempo che cerco di convincere Bruce a dirigere questo documentario. Insomma, un po' come Ligabue, che infatti ama Bruce Springsteen, quando Domenico Procacci l'ha convinto a dirigere Radio Freccia. Ed è interessante il soggetto, perché il soggetto è quel Asbury Park, che tutti gli amanti di Bruce Springsteen ricorderanno credo fosse il suo primo album, Asbury Park, New Jersey. Asbury Park non è un parco, ma è il nome di una città, ed è, secondo Jonathan Demme, è the ground of Bruce Springsteen. Ground vuol dire terreno, ma vuol dire anche origine, quindi è là dove è nato Bruce Springsteen, ma è anche una metafora for what America always does wrong in creating a city. L'America naturalmente è un paese giovanissimo, quindi ha avuto un'urbanizzazione velocissima e molto spesso, secondo Jonathan Demme, i risultati non sono stati tutti belli e stupendi, come per esempio New York. Nelle piccole città ci sono molti difetti e Asbury Park è una metafora di tutto questo. Ritorna Neil Young, hanno qualcosa in comune? Sì, appunto lui dice somehow our word reaches him, come se le parole nell'etere, anche quelle che stiamo dicendo io e te, arrivassero alle orecchie di Bruce Springsteen, perché lui dice Bruce Springsteen is profoundly creative, quindi profondamente creativo, ma soprattutto, o forse come tutte le persone davvero creative hanno più di un talento, profoundly cinematic. Deve dirigere un film. Magari il soggetto poi non sarà Asbury Park. Penso che a Jonathan Demme basterebbe produrre un qualsiasi film diretto da Bruce Springsteen. Ascoltando l'entusiasmo nella voce, secondo me è proprio ci così. Riuscirà. Ci riuscirà, ci riuscirà, speriamo. Dobbiamo salutare Jonathan Demme che ci ha tenuto compagnia per questa puntata di English 24, ma anche in questa intervista al Milano Film Festival. Io ringrazio Mauro De Angeli in regia, vi ricordo la nostra pagina Facebook e anche il nostro appuntamento con English 24 in edicola da Marta Cagnola. E Giulia Crivelli. L'appuntamento al prossimo English 24.